Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi noi parliamo di energia. Due telefonate mi hanno ispirato, suggerito questo tema. Anto, ciao, sono Nico. Come va? Volevo augurarti buon anno, ma poi sai, il tempo è passato. Come ti sta andando? Ciao Nico, grazie. Guarda, magari fammi una domanda di riserva, già che ci sei. Perché se il buongiorno si vede dal mattino, il mio 2011 insomma non è che è iniziato proprio alla grande. Mi sento un po' giù e sinceramente non te lo so nemmeno spiegare, perché è un calo di energia che non mi aspettavo in questo inizio anno. Non so, mi sembra di non avere la forza per affrontare proprio nulla durante la giornata, sono sempre a pezzi, mi pesa anche rifare il letto, e come se fossi passata proprio sotto un rullo, non so, spero che passerà questa fatica, perché non so più che fare. Anto, mi dispiace così tanto, anche a me capita, ma vedrai che è questione di giorni, poi si trova il modo di ricaricarsi. Ok. Un abbraccio, vediamoci, chiamami. Ciao. Antonella, un marito, si chiama Pietro e io l'ho chiamato. Pietro, ciao, sono Nicoletta, come va? Ciao Nicoletta, ma insomma direi abbastanza bene, poi è appena riniziato l'anno, abbiamo fatto delle belle vacanze per cui sono molto carico, per cui va bene. Appena sentito Antonella, io devo dirti che insomma non l'ho mai sentita così giù, ma che cosa le sta capitando? Ma non lo so, in verità anch'io ho visto che in questi ultimi giorni è un po' spompata, non lo so, la vedo un po' stanca, quasi svogliata. Però appunto ti dicevo, io invece sto benissimo, per cui è andata a finire che in questi giorni le sto dando il cambio io, insomma, anche in casa, perché lei è proprio stanca, non riesco a capire. Ma guarda, ne parlavamo proprio ieri sera e le dicevo, se sapessi come si fa a darti un po' di forza, te la passerei volentieri un po' della mia, perché davvero lei è molto giù, io sono molto su invece, e se ci fosse una ricetta per fare questo passaggio io sarei contentissimo. E già, ci fosse una ricetta, e questa è la sfida che vi lancio oggi a voi. Chiedo di chiamarmi per dirmi come vi sentite, cosa fate soprattutto per tenere alto il vostro livello energetico, per essere, restare o diventare, come si dice, gagliardi. Io a mia volta, insieme ai miei ospiti, funzionerò da vostra stazione di servizio dell'energia. State con me, farete il pieno di buoni consigli, alla fine della puntata chissà, staremo tutti un po' meglio. 800 24 00 24, i messaggi 349 238 6666. Di fai stare bene, di fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai, mai, mai. Mi fai stare bene, mi fai stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo. Sì, io voglio proprio farvi stare bene e direi che per darci una mossa è meglio procedere per gradi. E riflettevo, se c'è una causa che di sicuro fa sentire affaticati, appesantiti in questo particolare periodo dell'anno, quella causa ha un nome: le abbuffate dei giorni di festa, molte calorie, forse poca sostanza, tradotto qualche chiletto in più, ma solo ciccia, niente forza. Buongiorno al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno a lei e benvenuto, buon anno. Buon anno anche a tutti voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Le lancio un SOS, dottor Speciani, siamo nelle sue mani, fa anche rima. Ma cosa succede all'energia del nostro corpo quando introduciamo troppe calorie? Oppure ci lasciamo andare a ripetute abbuffate, magari alternandole a salti di cena o di pranzi, in modo per cercare di ridurre un po' l'importo calorico? Guarda, qua è proprio una situazione che, intanto io spero che alcuni dei nostri ascoltatori, se ci hanno sentito prima di Natale, non abbiano fatto proprio delle abbuffate terribili, Questo sarebbe un buon segno. Il secondo è questo, che effettivamente in questo momento, che è un momento in cui l'energia si ferma, il sole è arrivato a un punto di culmine, poi riparte con la sua ripresa di allungamento della giornata, anche le energie delle persone sono più rallentate. È vero che proprio ricordandoci di quando noi eravamo degli uomini primitivi nel Paleolitico, 800.000 anni fa, quando ci sono questi eccessi di alimentazione a cui noi non siamo mai stati abituati, l'organismo cosa fa? Dice: perbacco, c'è una ricchezza incredibile, col freddo metto tutto in scorta, abbasso il metabolismo, cerco di ingrassare. Quindi e questo fa anche la buffata, cioè l'associazione di momenti di digiuno, salto, poi improvvisamente mangio abbondantemente o faccio una bevuta abbondante, sono le situazioni che creano degli squilibri in un momento già delicato dell'organismo, e quindi facilmente l'energia tende ad essere, come dire, non orientata verso l'esterno, quindi non dando una mossa creativa, ma tende semplicemente ad accumulare e purtroppo a mettere chili in più. Però noi mettiamo subito rimedio agli errori fatti. Per chi si sente giù, affaticato, senza forza, i consigli del dottor Speciani, tra l'altro in rete ci sono siti interamente dedicati a questo problema che suggeriscono tante soluzioni. Noi in redazione ne abbiamo scelte alcune che ascoltiamo con il commento del nostro esperto. Se soffri di affaticamento muscolare, scegli carne e legumi. Ah, questo è interessante, perché in realtà sono lo yin e lo yang, cioè quindi stiamo parlando di energia, ed ecco che abbiamo nei legumi la parte yin, forse più femminile e creativa, nella carne la parte yang, direi che è un buon bilanciamento, anche se non sempre dobbiamo scegliere carni rosse, però direi che questo può funzionare adeguatamente. Se ti senti stanco, il tuo rimedio è il ferro, lo trovi nelle uova e nelle verdure a foglie verdi. Grande, il ferro nelle verdure a foglie verdi è una cosa realissima, nelle uova ce n'è un po' meno, perché le statistiche portano le uova che sono il caviale contiene moltissimo ferro, le uova di gallina contengono un po' meno, però sono degli ottimi contenuti proteici, e direi che il rapporto con il ferro che aiuta e stimola, anche se devo dire nelle uova in realtà ci sono dentro anche degli ottimi grassi e delle ottime vitamine all'interno del nucleo del tuorlo, che possono dare una forza stimolante in questo periodo. Non riesci a concentrarti? Scegli l'integrale. Pasta, pane e riso non raffinati piacciono al cervello. Direi che questa è una cosa che deve essere assoluta, cioè la gente deve capire che il cereale integrale ha dentro il germe, ha dentro la parte che consente a qualsiasi organismo di crescere. Senza germe il cereale marcisce, lo stesso anche il cervello delle persone. Dobbiamo evitare assolutamente di mangiare cibi raffinati, questo è un dato importante, ma non vale solo adesso dopo Natale, vale in tutti i momenti dell'anno. Se sei giù di tono, punta sullo iodio. Pesce ed alghe sono i cibi che fanno per te. Ecco, probabilmente lo iodio non c'entra niente, in realtà è legato a un apporto di grassi omega 3, ad un apporto di proteine pulite, ad alcuni microelementi che sono presenti nelle alghe, tra cui anche lo iodio. Quindi diciamo che è un consiglio abbastanza buono, in bilanciamento, per cui le proteine bilanciate con altri tipi di proteine, come abbiamo detto prima con le uova, sono un ottimo consiglio. Il mare ha sempre portato cose positive. La tua energia è altalenante. Aiutati con il cioccolato, che dà la carica e il buon umore. Errore. Allora, qui non è un problema di cioccolato, è un problema di cacao. Il cacao è un ottimo stimolante e porta dentro davvero un mucchio di cose positive. Se noi ci mangiamo il cioccolato fatto con dentro latte, zuccheri abbondanti e tutto quanto, in realtà rientriamo, grazie allo zucchero, in questa oscillazione, quindi di alto e basso di umore. Noi dobbiamo usare del cacao, dell'ottimo cacao amaro, del cioccolato molto noir, come dire, quindi ad altissima percentuale di cacao, e a questo sì, invece ha un'ottima azione positiva, e quindi è un consiglio per cui possiamo consumare alcune delle scorte rimaste. Dottor Speciani, io ho già fatto la lista della spesa, ho preso appunti e mi sento già un po' ricaricata, ma dato che a me piacerebbe molto portarla con me a fare la spesa, ma al supermercato lei con me non può venire, ecco, io vorrei che lei ci desse qualche aiuto, proprio qualche consiglio flash rapido, perché molto spesso da quello che finisce dentro il nostro carrello dipende anche un po' la nostra salute, il nostro stare bene, il nostro sentirci ricaricati. Ma infatti è bellissimo quando si è al supermercato, guardi i carrelli, poi guardi le persone e in realtà fai delle similitudini. Anche a me capita, sbircio sempre. Come con i cagnolini, no? Si dice che il carrello e i cagnolini assomigliano alla persona. È vero, se lo ricorda il film di Walt Disney, La carica dei 101, c'è quella magnifica scena all'inizio in cui proprio il cane assomigliava al padrone, il barboncino. E il carrello assomiglia. Allora, ci dia un carrello, di un qualche indicazione per mettere solo quello che ci fa bene, ma anche che ci piace, perché noi vogliamo gratificare il gusto. Certo, ad esempio il consiglio più semplice oggi è quello di andare a cercarsi delle cose simpatiche. La prima cosa da fare è di entrare cercando della frutta e della verdura, questo perché noi spesso andiamo al supermercato magari affamati e quindi siamo attratti da classici junk food, cioè cibi spazzatura, che in realtà sono vuoti di vitamine e minerali e sono solo delle calorie assolutamente inefficienti. Allora, passare dalla frutta e dalla verdura in questo periodo non c'è granché, però ad esempio il kiwi, ecco un kiwi simpaticamente spelato, questo è un suggerimento che è nato da mia figlia: anziché mangiarsi il kiwi sbucciandolo, cioè togliendo di tutte le cose buone, il kiwi se viene spelato, adesso gli togli tolti i peli con una spazzolina, in realtà ha un sapore estremamente originale e simpatico, può essere un gusto nuovo per iniziare questo periodo. Ecco che quando uno sta cercando degli antipasti, anziché prendersi delle cose ricchissime di sale, varie patatine, patatuzze, cosucce strane di questo patatine tipo, patatine, ecco, patatuzze, sì, non ho fatto nomi, va bene, uno prende, passa dove ci sono c'è la frutta secca tostata e non salata, ecco che noci, mandorle, nocciole, qui sì che abbiamo uno stimolo per l'energia. Uno studio recentissimo ci ha detto che l'utilizzo semplicemente delle noci sbriciolate a crudo sul cibo consente di fermare il declino cognitivo, che è una parola terribile per dire che uno diventa un pochettino stanco, affaticato e peggiora con la situazione di memoria e tutto quanto. Quindi vedi che abbiamo degli elementi estremamente interessanti. Ultima, che è una delle cose che ci regala l'inverno, che un po' non ci sta dando tantissime cose se non quelle di importazione, il cavolo o la verza, delle ottime foglie. Mi ricordo la mia mamma faceva delle polpette avvolte nelle foglie di cavolo. Il cavolo ha una ricchezza che è una specialità milanese, tra l'altro. Esatto. Però come consiglio dato a tutti, se uno si fa una foglia di cavolo al vapore e quindi la ammorbidisce, poi dentro ci mette magari 3 gamberetti, 3 sbriciolati di noce, piuttosto che un pezzettino di polpettina, piuttosto che un pezzettino di carne, un pezzettino di pesce, ecco che riusciamo ma ad abbinare. Ma chi ci ferma più? Ma dai, siamo belli. E siamo anche ecobiologici, rispettiamo anche la stagione e la natura. Dai, più di così, più di così, super ricaricati. Dai. Grazie dottor Speciani, buongiorno a lei. Grazie sempre... a tutti voi, buona carica per la giornata. Come si dice, sempre in gamba, si diceva. Intanto vi leggo alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati sul nostro profilo Facebook. Vi siete subito attivati, mi avete dato la vostra ricetta per ricaricarvi. Francesco ci scrive: un bel respiro profondo che fa sentire noi stessi e vivere secondo la modalità dell'essere e non dell'avere. Francesco, potevi scrivere le modalità dell'essere e del benessere, che così mi facevi anche un po' di pubblicità al mio programma. Anna ci scrive che si ricarica con una doccia calda e una birra fredda dopo una sudata da sport. Sara si ricarica pedalando in acqua e Baby Birba invece ci fa sapere che è il suo cane che l'aspetta a casa a farla sentire carica. Alessandra: pensare al sorriso di mia nonna, morta a 103 anni, che aveva uno spirito, una forza ed una voglia di vivere inesauribile. Voglio leggervi anche quello di Enrico: guardarsi allo specchio e chiedersi stai per morire? Se la risposta è no, allora anche per quello che potrebbe andare storto c'è la possibilità che si possa raddrizzare. Pier Antonio, buongiorno dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io mi ricarico scrivendo per teatro e poi magari potendo anche recitare. La mia giornata è sempre piena di eustress. Bene, dello stress buono, quello che ci permette proprio di andare avanti. Ma è una passione che coltiva da tanto tempo oppure che no? Da tanto tempo, sì, ho pubblicato parecchi libri di narrativa, soprattutto di tipo psicologico. Ma a questo associo anche un'alimentazione sana. Sì. Mi piace mangiare un po' di tutto, ma sempre con una certa moderazione. Grazie, quindi questa è la ricetta che ci suggerisce Pier Antonio dalla provincia di Vicenza e io vado a salutare il dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina cinese. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Dottor Corradin, stavo pensando all'energia e mi è venuta in mente una sorta di paragone. Dentro le nostre arterie scorre il sangue che circola e nutre, ossigenandolo, tutti i nostri organi vitali, e io vorrei parlare di un'altra rete che raggiunge tutti i distretti del nostro corpo portando energia e che ha stazioni di snodo di importanza fondamentale. Si chiamano chakra nella medicina indiana, meridiani e zone di concentrazione energetiche nella medicina tradizionale cinese. È corretto, dottor Corradin? È correttissimo. Per la medicina cinese il corpo è circumnavigato da questi flussi di energia che scorrono in ogni parte del nostro corpo, lo nutrono, lo fanno vivere, lo fanno crescere, lo fanno gioire e gli fanno, in poche parole, interagire con tutto ciò che sta dentro di sé e tutto ciò che sta nel mondo. Senta, dottor Corradin, ma questa energia, in effetti, mi dà una definizione di energia, dato che lei è medico e anche esperto di medicina tradizionale cinese? Due definizioni che forse sono sovrapponibili, ma ci aprono un po' la testa, ci aiutano a considerare l'unità di soma e di psiche. Certo, per la medicina le posso dare una definizione sia come medico sia in medicina cinese. Certo. Come medico occidentale, l'energia è la forza contenuta all'interno di una molecola che si chiama ATP. E sì, questa è quella che per la medicina occidentale dà energia ad ogni parte del corpo. Per la medicina cinese energia è movimento, energia è funzionalità. E quindi c'erano dei testi classici che dicevano il qi, energia, è il battito d'ali degli uccelli, è la caduta dell'acqua di una cascata, è il movimento di un uomo, è l'amore di un uomo verso una donna. Quindi per la medicina cinese tutto è qi, tutto è energia. È molto, c'è molta più poesia in questa definizione. Dottor Corradin, noi stiamo parlando di energie, quindi cerchiamo di contrastare quella stanchezza, quella mancanza di forze, che comunque sono sintomi che non vanno mai trascurati, è sempre opportuno parlarne con il medico. Quindi, dottore, fatta questa premessa, io direi mettiamoci al lavoro. Ho fatto gli esami, sono a posto, il mio medico mi ha detto che è tutto ok, ma ogni tanto ci sono dei giorni in cui proprio non carburo. Un po' come la mia amica Antonella, tutto diventa pesante, alzarsi al mattino dal letto, fare il letto, andare a fare la spesa, non penso neanche alla palestra. È come se qualcosa, un sasso, mamma mia, una pietrona, bloccasse un po' questa energia che dovrebbe fluire invece come un fiume lento dentro il mio organismo. Che cosa succede? Esattamente questo. Per la medicina cinese ovviamente esistono dei blocchi in alcune zone specifiche del corpo. Si va dal medico agopuntore o comunque dall'esperto di medicina cinese, può trattare dei punti specifici che hanno specificatamente la funzione di regolarizzare l'assetto energetico del corpo. Ovviamente accanto all'azione del medico agopuntore, che ovviamente è più precisa, ci possono anche essere dei piccoli fai da te. Eccoli, e noi proviamo a fare un po' di fai da te. Vogliamo energizzarci? È pronto? Certamente. Dottore? Allora, pensi che uno dei più grandi medici agopuntori francesi, uno di coloro che hanno portato l'agopuntore in Francia, diceva che la stimolazione di due punti, uno posto appena sotto l'ombelico, due dita sotto l'ombelico, che si chiama con un nome bellissimo CI, che significa mare dell'energia. Questo è un punto che può aumentare complessivamente l'energia del corpo. No, adesso questo qua me lo spieghi bene. Allora, io prendo l'ombelico, è qua. Ecco, due dita sotto l'ombelico. Ok, ci sono. Esiste un punto che si chiama CI, mare dell'energia. Bello, e cosa ne faccio di questo punto? Ecco, lo massaggio? Questo punto, se lo associamo ad un altro punto che si trova appena sotto la testa del perone o fibula, l'associazione di questi due punti, diceva questo grande autore del secolo scorso, della prima metà del secolo scorso, questo grande autore che si chiama Soulier de Moran, e ha la capacità di aumentare del 25% la forza di un individuo, quindi che non è solo una forza fisica, è una forza fisica, poi diventa forza mentale, diventa forza psicologica, ma per rimanere all'esempio che lei faceva, cioè quindi della stanchezza mattutina, non aver voglia di fare, lo stimolo di questi due punti, ripeto, uno posto immediatamente sotto l'ombelico e l'altro posto appena sotto la testa della fibula, cioè? La testa della fibula, se noi andiamo sulla gamba, gamba, sì, dove c'è la piccola sotto il ginocchio, quindi sì, sul lato, appena dove c'è quella piccola protuberanza ossea, appena sotto quel punto, sì, questi due punti, tre, se li prendiamo i due laterali, la gamba destra, la gamba sinistra e quello sotto all'ombelico, possono aumentare la forza muscolare. Allora, noi adesso andiamo a sentire che cosa succede ai mercati, poi andiamo al meteo. Intanto voi continuate a scriverci le vostre ricette per ricaricarvi di energia. Potete naturalmente anche chiedere i nostri consigli, ve ne stiamo dando alcuni, il dottor Corradin ce ne darà altri. Intanto abbiamo Giulia da Milano al telefono che voglio salutare. Ciao Nicoletta, che piacere parlarti. Giulia, anche per me. Posso chiederti, Giulia, di rimanere con noi? Certo, perché io ho certo, i secondi precisi, Roberto Scaltritti che regia la parte tecnica mi fa segno che è tempo di dare la linea, quindi 800 24 00 24, restate con noi, oggi Essere Benessere è la vostra stazione di servizio per ricaricarvi di energia, utilizzateci. Essere Benessere. Avete provato a stimolare i punti suggeriti dal dottor Corradin? Dottore, siamo andati sotto l'ombelico, siamo arrivati alla gamba e quello dovrebbe darci più energia? Più forza, specialmente proprio muscolare, più la forza così come comunemente la intendiamo. Sentiamo se anche Giulia, che è in linea con noi, ha fatto l'esercizio del dottor Corradin. Giulia? Io non l'ho fatto perché sinceramente non mi serve questo esercizio, perché di energia me ne sento sempre tantissima. Allora ne dia un po' a noi, Giulia. Ce l'ho, ma vedi, per me è una questione psicologica proprio l'energia, perché al di là del fatto che uno può avere magari dei problemi fisici, allora quello è un altro discorso, certo, anch'io ne ho avuti tanti, e però mi è sempre successo che nei momenti di difficoltà, invece di abbattermi, mi caricavo ancora di più, perché capivo che dovevo farcela, dovevo risollevarmi, certo, e per cui automaticamente questa energia me la creavo, capisci? E secondo me questo fatto psicologico è proprio come aver coscienza della voglia di vivere. L'energia è qualche cosa che tu da solo ti crei, non è che te lo può dare qualcun altro. Devi crederci e coltivarla. Sì, è così. Devi avere qualche cosa, e l'attesa anche, l'attesa sempre di qualche cosa di bello. No? Grazie Giulia per essere intervenuta. Ciao Nicoletta. Grazie, un abbraccio. 800 24 00 24 ed è sicuramente, lo vediamo, sempre, è sempre carico di energia, un'energia che sprizza da tutti i pori. Carlo Conti che è in linea con noi. Carlo! Buongiorno, buongiorno. Ma che bellezza! Ma e vogliamo poi sapere il tuo segreto, ma io vorrei parlare di questo programma che abbiamo appena, no? Si è appena concluso. Uno dei programmi più sprezzanti di energia di tutto il palinsesto, in cui tu hai raccontato anche i decenni passati che, Carlo, mi sembravano più energetici di quelli attuali. Secondo te qual è il motivo per cui il passato ci sembra sempre più bello, più carico, più ricco del presente? Primo perché eravamo più giovani, ovviamente. Ciascuno era comunque più giovane in maniera proporzionale, ma era più giovane. Secondo perché è legato ai ricordi, alle emozioni dei ricordi, della memoria, quindi all'emozione di un amore, all'emozione dell'amicizia, dei giorni di scuola, oppure della giovinezza, oppure del primo amore, o delle partite a calcio con gli amici. Insomma, ognuno ha l'energia del passato, è sicuramente un'energia positiva. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di aver vissuto i 60, 70, 80, 90, dico anni magnifici. Oggi magnifici, quindi a differenza magari dei nostri nonni che arrivavano da una guerra e quindi tutta una ricostruzione da fare. Noi abbiamo goduto, parlo di una generazione che va dai 50 in poi, ha goduto completamente dalla ricostruzione in poi, quindi certo, non ha sentito le carenze di niente, quindi soltanto la gioia. Gli anni migliori, insomma. Esatto, i migliori anni. E a proposito dei migliori anni, gli SMS che vi inviavano gli ascoltatori sono diventati un libro, noi che gli SMS dei migliori anni, edito da Mondadori, ed è il libro, caro Carlo, che io ho scelto per il consiglio di lettura di oggi. E quindi chiedo ai miei ascoltatori di scriverci la ricetta energizzante utilizzando proprio lo stile suggerito dai migliori anni. Noi che, per ritrovare energia, intanto andiamo a sentire alcuni dei messaggi di noi che dei migliori anni. Noi che, le partite di calcio si giocavano tutte alla domenica pomeriggio. Noi che ci si trovava coi vicini a vedere la TV dal solo vicino con la TV. Noi che, quando partiva la sigla di Almanacco del giorno dopo, nei cortili odor di cena. Noi che avevamo le scarpe della domenica e quelle della settimana. Noi che andavamo in discoteca alle 21.30 e tornavamo a casa all'1.30. Noi che, lottando col flipper, lo mandavamo in tilt e la partita finiva. Noi che sul diario scrivevamo con affetto e simpatia: lascio qui la firma mia. Noi che si partiva per il mare viaggiando nel bagagliaio della giardinetta. Carlo, qual è il tuo preferito tra questi SMS? Ma ce ne sono tanti, guarda, nell'ultima puntata, tra gli altri legati alla lotteria, l'abbiamo messi in votazione e ha vinto forse a sorpresa quello più romantico. Noi che per sapere se nostro figlio era maschio o femmina dovevamo aspettare nove mesi, carino. E al secondo posto invece forse il più simpatico, quello che noi che il motorino era più truccato della fidanzata. L'ho sentito, bellissimo. Senti. Poi che noi che ballavamo guancia a guancia, ora balliamo pancia a pancia. Noi che, a me piace molto, noi che se a scuola la maestra ti dava un ceffone, a casa la mamma te ne dava due. Quanto era vero. Senti, e invece, tra l'altro, questo libro, che è pieno di energia, ma direi di buona energia, ha dei fini umanitari, perché... Perché siccome l'ha scritto il pubblico questo libro, con tutti i suoi SMS, non mi sembrava giusto guadagnarci, allora io ho semplicemente raccolto e la parte che riguarda gli autori va tutta all'ospedale pediatrico Mayer di Firenze, un'istituzione straordinaria che non interessa soltanto Firenze e la Toscana, ma tutta Italia e tutta Europa, un'eccellenza per la pediatria infantile, quindi insomma per la pediatria, cioè se no era un doppio gioco di parole, per la pediatria, e quindi mi sembrava giusto devolvere. Già con la prima edizione abbiamo già consegnato 50.000 euro all'ospedale, alla fondazione. Vedi, fantastico. E quindi vediamo di grazie all'aiuto dei lettori, che poi sono gli scrittori, di aiutare ancora l'ospedale. Senti, ci aiuti tu, facciamo un noi che, mandami il tuo messaggino ricaricante. Sì, noi che apprezziamo ancora le piccole cose. Grazie a Carlo Conti, ciao, un abbraccio. Credo sia proprio il centro dell'energia. Grazie, a presto. Ciao, grazie. Dottor Corradin. Prego. Ma lei mi manda in visibilio i miei ascoltatori che vogliono sapere altri punti, quanto massaggiarli, quanto premere, quanto stimolarli, che giro di massaggio fare, antiorario, orario. Allora, facciamo proprio una sfiorata. Ecco, allora, abbiamo già individuato il punto sotto l'ombelico e quello sulla gamba, giusto? Quanto dobbiamo massaggiarla? Alcuni ascoltatori dicono che non è stato chiaro per individuare il punto della gamba. Andiamo al ginocchio, sulla parte esterna si sente una piccola protuberanza ossea che è la testa della fibula, appena sotto la testa della fibula, quindi sulla superficie laterale della gamba, è presente questo punto, che è un punto che si chiama proprio fontana della collina Yang, perché è una fontana di energia, è proprio irrora di energia tutti i muscoli del corpo. Quindi si mette lì e si stimola per quanti minuti? Si può stimolare con movimenti orari rapidi per un minuto, anche 2-3 volte al giorno, 4-5 volte al giorno. Senta, e mi dice anche qualche altro punto energizzante? Sì, ad esempio ce n'è uno molto importante che è posto nel torace, proprio si chiama centro del petto, è posto nel centro del petto dove noi mettiamo il dito per dire io, a volte non facciamo attenzione che nonostante che sia la nostra testa ciò che consideriamo più importante, in realtà quando ci indichiamo mettiamo il dito nel torace, mettiamo il dito nel torace perché lì c'è la sede del ritmo, lì c'è quindi la vitalità dell'individuo. Al centro del petto, proprio nell'orizzontale che passa per i capezzoli e sulla verticale proprio mediana del torace, c'è un punto che si chiama centro del petto, che è particolarmente efficace. E quindi è un po' l'ho individuato nello sterno. Sì, nello sterno. Ecco, quindi sterno. Se lo tocchiamo lo sentiamo anche molto, è un punto particolarmente efficace con 2-3 funzioni. Da un lato rifornisce di energia l'individuo, dall'altro è uno dei principali punti anti-ansia. L'ansia in medicina cinese è formata da 1000 meccanismi. però in generale, come punto sintomatico per l'ansia e contemporaneamente punto molto energizzante, questo punto posto al centro del petto è particolarmente efficace. Allora, sono qua, provo tre dita sullo sterno, è un bel respiro, per ricaricarci. E quello, tra l'altro, è un punto di comando anche del diaframma, quindi di quel muscolo che, perché prima sentivo alcuni ascoltatori che sottolineavano fare respiri profondi, sì. Consideri che la traduzione dell'ideogramma energia è proprio soffio, cioè la respirazione è uno dei modi fondamentali per ricaricare di energia al corpo, e addirittura il punto di comando sulla schiena che comanda il polmone e il diaframma è proprio il punto maestro dell'energia. Voilà, e noi abbiamo tutti questi consigli. Grazie dottor Corradin per essere stato con noi. Alla prossima, arrivederci. Alla prossima, e in una puntata dedicata all'energia non potevamo non sentire il nostro Mr. Kilowatt, che ho qui in studio da me. Ciao Mr. Kilowatt. Ciao Nicoletta. Allora, sei in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fammi fare la cosa, alle ore 21. E 05, dopo 05. Il GR delle 21. Allora, abbiamo fino ad ora parlato di energia del nostro corpo, ma anche l'energia dell'ambiente, caro Mr. Kilowatt, l'ambiente in cui viviamo e quello che più tecnicamente chiamiamo microclima, ha un forte impatto sul nostro organismo. Allora, tu ci puoi dare una mano, no? Ti abbiamo proprio invitato perché io voglio che tu ci suggerisca tre mosse che tu ci puoi consigliare da fare nel nostro ambiente per risparmiare energia e, siamo a essere benessere, guadagnare in salute. Ok. Beh, allora, intanto la buona notizia è che tendenzialmente, diciamo, i due obiettivi non sono affatto conflittuali, ma anzi, diciamo che spesso vanno a braccetto. Beh, per esempio, un buon modo, diciamo, per avere una qualità buona della temperatura in casa è utilizzare i riscaldamenti a bassa temperatura, noti come riscaldamenti a pavimento, ma in realtà possono essere messi anche sulle pareti, possono essere messi anche sui soffitti. Qual è il vantaggio di questi sistemi? Sì. Che il calore non è il calore dell'aria, ma una buona parte del calore che percepiamo è calore per irraggiamento, cioè sono proprio gli oggetti caldi che ci circondano che ci mandano queste radiazioni, sono infrarossi tecnicamente, che ci scaldano, e noi percepiamo un benessere maggiore, più simile a quello che percepiamo per esempio quando sorge il sole. E sentiamo il calore sul corpo, sono gli infrarossi che sono metà della luce del sole. Come quando ci abbraccia la nostra mamma. Esatto, è un calore. Questa è un'energia ricaricante, buona, ci sono le strade, la viabilità. Essere e benessere. Eccomi, siamo tornati, sono Nicoletta Carbone e qua davanti a me ho Mr. Kilowatt che ci dà dei consigli, tre mosse, ne abbiamo detta già una. Una, sì, riscaldamento a bassa temperatura, pavimento. Ecco, un'altra importante è tenere le temperature basse di notte, proprio il ciclo diario, no? Quello del giorno e della notte, il nostro organismo è abituato a questo tipo di ciclo e quindi si aspetta temperature più basse la sera. Tra l'altro, tanto vale tenere bassa la temperatura in camera un po' sempre, ci sono delle valvoline, si chiamano valvole termostatiche, che fanno risparmiare molto e costa pochissimo installarle. E poi tenere umidificati gli ambienti, perché l'aria fredda contiene poca acqua e quando noi la riscaldiamo col riscaldamento, abbassiamo ulteriormente questa quantità di acqua e quindi è molto secco il clima. Senti, invece tre cose proprio da non fare? Allora, tre cose che da... non siano il contrario di quelle che abbiamo detto, ecco, naturalmente. Sì, non tenere le temperature troppo alte in generale. In generale bisogna non estremizzare la differenza di temperatura e di clima che c'è fra l'interno e l'esterno della casa. Evitare di tenere aperte le finestre a lungo perché si raffreddano i muri, meglio un cambio molto rapido, più aperto per poco tempo ma tutto spalancato. Vorrei andare proprio a vedere la casa di Mr. Kilowatt. Non mi hai mai invitato. Ci stai lavorando? Ci sono appena trasferito. Allora veniamo, ok, poi vi racconto. L'ultima faccio un cosa servizio. Importante però è non fare il contrario, cioè non tenere troppo chiuso, perché l'ambiente interno, l'aria all'interno della casa è molto inquinata, sottovalutiamo spesso, diciamo, le emissioni naturali, per esempio quelle della cucina, e allora invece è importante cambiare l'aria. Ci sono dei dispositivi che si chiamano ventilatori a recupero di calore che consentono di cambiare l'aria ma di non sprecare il calore, perché viene trasferito il calore dell'aria calda della casa, viene trasferito all'aria fredda che entra dall'esterno, così si ricambia l'aria e si mantiene la temperatura. Senti, però alta. Dai tanti messaggi che stanno arrivando, io mi ritrovo molto in tutti gli ascoltatori che mi dicono: io per ricaricarmi devo aspettare la primavera, il sole. Non hanno tutti i torti. Non hanno tutti i torti, perché con questo tempo Milano è così grigio, ma tu proprio neanche oggi... Neanche infilando le dita nella presa della corrente si ricarica. Insomma, la luce, il sole, questo sì che è ricaricante, e ci sono anche buone notizie da Mr. Kilowatt. Beh, diciamo che è stato proprio provato scientificamente che il rendimento sul lavoro e nello studio aumenta e di parecchio con la luce naturale. Allora bisogna favorire, si risparmia evidentemente poi anche la luce elettrica, l'ingresso della luce naturale in casa, e ci sono tanti modi per farlo. Per esempio ci sono degli oggetti che si chiamano tubi di luce, che sono proprio dei tubi riflettenti, oppure degli oggetti ancora più semplici e più economici. Si chiamano... vedi che questo tubo i tubi di luce sono un po' costosi, però portano la luce in qualunque angolo della casa, fanno proprio... La catturano dal tetto con delle cupolette e la trasportano tramite questi tubi altamente riflettenti in ogni angolo di casa. Io non l'ho messo perché avrei dovuto demolire una casa di pietra, figurati. No. E invece ci sono gli scaffali di luce, sono cose che si fanno quando si costruiscono le case, però di solito. E sono tipo delle mensole che stanno sopra le finestre, quindi uno può aprire e chiudere la finestra normalmente, ma queste mensole riflettono la luce del cielo sul soffitto in modo tale che la luce entra in profondità, non è mai abbagliante perché è molto diffusa ed è molto piacevole perché è luce invece naturale. Chi non ha da fare, cioè chi ha una casa e non deve ristrutturarla, ce l'ha già da 20 anni, ci sono dei trucchi, uno può mettere delle tende in un certo modo, per esempio le tende esterne bianche anche un po' arredatore riflettono all'interno la luce. Allora, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. E grazie per i consigli, ti sentiremo. Lanciati, vi aspetto. Mi autolancio, vi aspetto questa sera con e energia. Poi tutte le prossime sere con energia, 21.05. Allora, noi ci siamo fatti dare i consigli da Mr. Kilowatt e d'altronde abbiamo bisogno, proprio quando il nostro livello di energia scende, di trovare qualche cosa di stuzzicante da provare, da sperimentare, perché noi tendiamo a cercare le cause ma non facciamo mai niente per risolvere il problema. Ad esempio, quando si è stanchi, molti danno la colpa alla dieta, chi al tempo, chi allo stress, chi alla mancanza di una amore o ad uno sfavorevole transito di pianeti come il famigerato Saturno. Ma Saturno è il titolo del nuovo libro di Antonio Capitani, che è in linea con noi. Ciao Antonio. Buongiorno. Senti Antonio, i pianeti li conosci e nel tuo libro aiuti a contrastarne anche gli effetti negativi, ma io non voglio addentrarmi in questo argomento, so che sei stato ospite del grande Stefano Gallarini, voglio invece sapere cosa fai tu quando ti senti giù, quando sei senza forze, quando Saturno ti fa un po', farà qualcosa anche a te sto Saturno? Sì, certo, oddio, il primo rimedio è quello, devo dire, più banale di tutti, è che insomma cerco di riposarmi, ma la cosa secondo me migliore è esprimere la propria creatività, e nel momento in cui tu ti dedichi alle tue passioni, io per esempio spesso cucino, a me piace cucinare per ricaricarmi con la musica in sottofondo, la mia musica preferita, e devo dire che in un attimo l'amore per la cucina, per la gastronomia mi rimette in bolla, come si suol dire, quindi ma raramente mi capita di essere giù, forse sono un fortunato che insomma vede del bello un po' in tutto, nelle varie condizioni meteo, nelle quattro stagioni, insomma io trovo sempre del bello in ogni cosa, però insomma sono un essere umano anch'io, e quando mi capita cerco di esprimere la mia creatività, e ti dico, uno dei modi è quello di cucinare, perché avrai un sacco di amici, ci saranno i tuoi amici che dicono speriamo che si butti un po' giù, che così ci invita a cena. Noi siamo pronti, guarda, Mr. Kilowatt sta facendo casa, per cui penso che viaggi da una cucina all'altra di un amico, per cui se vuoi, se ti senti un po' giù, dacci una telefonata e noi arriviamo subito e preparerò da mangiare per tutti. Grazie ad Antonio Capitani, ciao, un abbraccio. Ciao. Cari amici, per tutta la settimana, io ho iniziato ieri ma continuerò fino a venerdì, vi invito a pensare ad un nuovo anno davanti a voi, un 2011 pieno di promesse, e non lo faccio da sola perché io mi affido alla voce di un vero e proprio mito vivente, no? È lui, Bruce. Il suo nuovo CD si intitola The Promise, la promessa, e avendo avuto a disposizione anche un'intervista esclusiva esclusiva con questa leggenda vivente della musica mondiale, ho proprio deciso di farvi mettere per iscritto i vostri buoni propositi del nuovo anno, lasciandovi ispirare dall'energia della sua musica. Una musica che è sempre al passo con i tempi, anche se quando venne scritta e prodotta dallo stesso Bruce, non la fece pubblicare su disco, perché troppe canzoni avevano per lui significati così vicini, proprio vicini vicini al suo cuore, al suo mondo emotivo, da decidere di lasciarli un po' così in un cassetto. Sentite, perché non uscì mai una canzone di questo tipo. It's a song about fighting and not winning. È una canzone che racconta la fatica di lottare senza la possibilità di vincere. È perfettamente in linea con il senso di disillusione così diffuso in quel periodo. Avrebbe potuto entrare nel disco che avevamo appena terminato, perché in perfetta sintonia con le tracce. Ma siccome io mi sentivo troppo vicino emotivamente a questa canzone e mi sembrava di non essere capace di avere un controllo su ciò che provavo quando la suonavo, non venne mai pubblicata. Wrong Side of the Street, e si può anche non sentirsi pronti per qualcosa che nasce da noi, scaturisce dal mondo delle nostre emozioni, però rischia di essere troppo, no? Di travolgerci. È proprio così, come dice il grande Bruce. E voi invece cosa volete dirmi? Cosa ha significato per voi in passato, ad esempio, combattere senza vincere? E quali invece propositi di vittoria riponete nella vostra speranza per il 2011? Allora, cari amici, proviamo a pensarci vincitori. Scrivetemi la vostra promessa, e la promessa che più piacerà alla redazione di Essere Benessere riceverà a casa, in collaborazione con IBS, il CD The Promise. Grazie per averci seguito, sono proprio super in tempo. Ringrazio Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ringrazio voi che mi avete coccolato, ascoltato, incoraggiato, scritto. Scrivetemi anche naturalmente le critiche, però anche i complimenti mi fanno piacere, fanno iniziare e continuare bene la giornata. Un abbraccio, statemi bene, energizzatevi, vi aspetto domani.